Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Per quanto riguarda il fine di Servillo, mi sono giunte strane voci, mi sembra, e spero che non lo sia, un'aggressione politica nei miei confronti. Spero che siano voci non fondate sulla realtà. Queste sono le voci che arrivano a Silvio Berlusconi a proposito, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, del film intitolato Loro, al quale sta lavorando appunto il regista Paolo Sorrentino, e mi ha chiesto ai giornalisti se si riconosce nei primi scatti di Toni Servillo, che lo dovrebbe interpretare in questo film. Però Berlusconi è anche sceso in campo sul referendum che si farà in Lombardia, accanto a Maroni, oggi sapete il 22 ottobre, Lombardia e Veneto lanciano questo referendum consultivo per chiedere maggiore autonomia allo Stato. Ce ne occuperemo, però ancora del bubbone Banca Italia, come lo vogliamo chiamare, questo caso che è scoppiato ieri. Continuano le critiche nei confronti di Renzi. Renzi però non si tira indietro a proposito della mozione del PD antivisco, quindi approfondiremo anche questa sera questo argomento. E poi, fra gli altri temi, parleremo anche del caso dell'uomo trentenne che ha infettato col virus dell'HIV almeno una trentina di donne, volontariamente nascondendo loro il suo stato di salute, dicendo che era allergico al lattice, quindi non proteggendosi. È stato richiesto l'ergastolo da parte della procura nel processo in cui è imputato. E poi ci occuperemo anche di smog, perché scattano i primi limiti superati in questi giorni, quindi le prime misure contro lo smog, in particolare nella pianura padana. Poi non piove, quindi la situazione è peggiore. Parleremo anche di quelli che sono gli impatti decisamente seri e gravi sulla salute umana. 349-238-6666, poi ve lo ricordo, il numero per WhatsApp ed SMS, se volete scrivere le vostre riflessioni, i vostri commenti sulle notizie, oppure c'è lì comodamente per voi giorno e notte la pagina Facebook di Effetto Notte. Prima di questi argomenti, quindi, sintesi della giornata. Il caso Banca Italia, Matteo Renzi insiste: nel settore banche è successo di tutto e mancata vigilanza, serve una pagina nuova. Molte le critiche nei suoi confronti, anche nel PD c'è chi non è d'accordo. Intanto Visco è stato ascoltato in commissione d'inchiesta sulle banche. Legge di bilancio, il bonus cultura destinato ai diciottenni diventa permanente. La crisi spagnola, la Catalogna alla vigilia del nuovo ultimatum di Madrid. Il primo ministro Rajoy chiede buon senso a Puigdemont per evitare l'articolo 155. Il sieropositivo che contagiò oltre 30 donne, il PM chiede l'ergastolo. Milano, alla guida di un SUV, uccise un uomo e fuggì, sia i domiciliari. La fotografia dell'OCSE del nostro paese: l'Italia è un paese per vecchi, i giovani sono svantaggiati, più poveri, senza lavoro, e bisogna dare alle donne più opportunità di impiego. Allarme smog, misure d'emergenza in Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto. Calcio, nella partita di Champions League, in campo Juventus e Roma in cerca di riscatto. Partiamo naturalmente dal caso di Banca Italia, che è scoppiato ieri dopo l'approvazione alla Camera della mozione del PD contro la rinomina del governatore Visco. Proseguono le reazioni, ma Matteo Renzi non demorde, dice: è mancata evidentemente una vigilanza efficace, ma non tutti sono d'accordo con il segretario del PD. Nel settore banche è successo di tutto, è mancata la vigilanza, occorre aprire una pagina nuova. Matteo Renzi insiste nel chiedere la sostituzione di Ignazio Visco a Palazzo Koch, poi precisa che il nome del governatore non lo decide il PD, rispetteremo la proposta del governo e la nomina del Quirinale. Critiche dentro e fuori il partito. Il nuovo corso di Renzi fa infrangere l'accordo appena sancito con Walter Veltroni, l'unico ex a parlare alle celebrazioni dei 10 anni EDEM. Per l'ex leader è incomprensibile e ingiustificabile la mozione presentata dal PD. Da sempre la Banca d'Italia è patrimonio di indipendenza e autonomia. Dalla minoranza Andrea Orlando chiede un'assemblea. Arriva la risposta del capogruppo Ettore Rosato: non vogliamo la testa di nessuno, ma non ci potevamo sottrarre dal dare un giudizio. Ma intanto anche l'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano interviene sulla mozione: non mi occupo di cose deplorevoli. Mentre da Forza Italia Silvio Berlusconi attacca: la sinistra è interessata solo alle poltrone. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E nominato il presidente, finite le prime audizioni, l'attività della commissione d'inchiesta sulle banche quindi entra nel vivo con un'accelerazione proprio dopo il caso Visco. La risoluzione delle quattro banche a novembre 2015, Etruria, Marche, Carichieti, Cariferrara, la crisi delle popolari venete, Veneto Banca e Vicenza, senza dimenticare il Monte dei Paschi di Siena, sono questi i casi più recenti sotto la lente che potrebbero portare alla non conferma di Ignazio Visco, governatore uscente di Banca d'Italia, accusata di non aver vigilato a sufficienza. Al lavoro c'è anche la commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, ci spiega Enrico Zanetti, membro della commissione. Ancora non stiamo, purtroppo, ribadisco, nonostante una certa pressione anche da parte nostra, non stiamo ancora lavorando su quasi concreti, però è evidente che nell'istante in cui è stato sposato il criterio di partire dalle cose più recenti, i primi casi che dovremo affrontare, quando finalmente li affronteremo, saranno quelli legati alle due banche venete e alla risoluzione delle quattro banche dell'Italia centrale. Nel mirino anche Banca Italia e Consob. Se Visco vacilla, il destino del numero uno della Consob, Giuseppe Vegas, è certo. Il mandato di 7 anni scade a dicembre e non è rinnovabile. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è durato poco più di un'ora l'incontro alla commissione d'inchiesta bicamerale sulle banche tra il governatore Ignazio Visco e l'ufficio di presidenza della stessa commissione. All'incontro, che è iniziato alle 18.40, hanno partecipato, oltre a Visco, il presidente della bicamerale Pier Ferdinando Casini e i due vicepresidenti Mauro Maria Marino del PD e Renato Brunetta di Forza Italia. E su questo, come vi dicevo, ci torniamo tra poco. A proposito invece dei referendum consultivi, mentre il centrodestra fa prove tecniche di voto per la Lombardia e il Veneto per domenica 22 ottobre, l'Emilia-Romagna sorpassa tutti e dopo aver incontrato il Presidente del Consiglio avvia un suo percorso di autonomia. Si conclude con la prova del voto elettronico per il referendum da parte di Berlusconi la conferenza stampa tenutasi al Teatro Piccolo di Milano, un incontro tra il leader di Forza Italia e il presidente leghista della regione Lombardia, Maroni. Un percorso comune, quello dell'autonomia, che Maroni chiede venga messa come tema centrale del programma del governo di centrodestra. Io vorrei che su questo punto ci fosse davvero l'unione. Immediata la replica di Berlusconi, che chiede che referendum consultivi per l'autonomia di Veneto e Lombardia vengano proposti in tutte le regioni. Una giornata in cui le notizie si superano con rapidità. Ai nostri microfoni il presidente della regione Emilia-Romagna conferma infatti l'avvio del percorso per la maggiore autonomia emiliano-romagnola, ma senza referendum. Ho firmato col presidente Gentiloni e nelle prossime settimane apriremo i tavoli di confronto con i vari ministeri, perché noi il lavoro che da lunedì mattina dovranno fare i presidenti Maroni e Zaia l'abbiamo già fatto. A Milano allora i cronisti chiedono se non fosse evitabile il referendum che alla Lombardia è costato 43 milioni di euro per l'acquisto dei tablet per il voto elettronico. La replica di Berlusconi. Credo che il colloquio cui lei ha fatto cenno sia proprio figlio della volontà che noi abbiamo messo in campo attraverso il referendum. Sul tavolo a pesare soprattutto il tema dell'affluenza, Maroni si aspetta di superare il 34%. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci sulla politica economica. Il bonus cultura destinato ai diciottenni diventa permanente. Questa è una delle novità della legge di bilancio. La mini cedolare del 10% che si applica sugli affitti a canone concordato diventa strutturale. È una delle novità contenute nelle ultime bozze della legge di bilancio approvata salvo intese dal Consiglio dei Ministri lunedì scorso. Tra le altre novità, il bonus cultura per i diciottenni, che diventa stabile. Diventa portabile poi, indipendentemente dall'età, il bonus giovani per le assunzioni con il Jobs Act, che per il solo 2018 varrà, invece che per gli under 29, per gli under 35. Il bonus, se non utilizzato per gli interi 3 anni alla prima assunzione, sarà portabile, si legge nel testo, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Tra le misure di contrasto all'evasione fiscale, una bozza della legge di bilancio prevede poi la dichiarazione precompilata anche per le partite IVA, basata sui dati della fatturazione elettronica. La misura non riguarderà le grandi società, che ovviamente hanno una contabilità complessa, ma il cosiddetto popolo delle partite IVA, commercianti, artigiani, professionisti, imprenditori individuali. Spunta anche una mini patrimoniale sulle polizze vita a capitale garantito, con un bollo del 2 per mille. Una misura questa che garantirebbe alle RAR nel 2018 maggior gettito per 194 milioni e 292 milioni di euro a partire dal 2019. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo anche della fotografia che fa del nostro paese l'OCSE. L'Italia è uno dei paesi più vecchi dell'OCSE, ma sarà ancora più vecchio nei prossimi anni, arrivando nel 2050 ad avere ogni 100 persone tra i 20 e i 64 anni altre 74 di età superiore ai 65. Lo scrive l'OCSE in un rapporto pubblicato oggi. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo segnala che i giovani italiani sono sempre di più intrappolati in lavori non standard e trovano difficoltà ad avere un lavoro stabile nel mercato. Il tasso di occupazione tra le persone tra i 55 e i 64 anni è invece cresciuto di 23 punti tra il 2000 e il 2016, a fronte di un calo di 11 punti invece fra i giovani. Poi all'estero, con la crisi spagnola, alla vigilia della scadenza dell'ultimatum domani presentato all'esecutivo catalano sulla dichiarazione unilaterale di indipendenza, fonti del governo spagnolo segnalano la convocazione di nuove elezioni regionali come un possibile modo di scongiurare il commissariamento dell'autonomia catalana. Ma intanto ci sono trattative in corso fra le componenti del fronte indipendentista per una possibile proclamazione della Repubblica Catalana se allo scadere dell'ultimatum di domani alle 10 Madrid dovesse applicare l'articolo 155 della Costituzione, che consente tra l'altro la sospensione dell'autonomia catalana. E ora a Malta, perché anche l'FBI, Scotland Yard e le polizie di più paesi d'Europa collaborano alle inchieste sull'uccisione della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa lunedì con un'autobomba. Il movente viene cercato nelle sue inchieste giornalistiche, concentrate negli ultimi tempi anche sui traffici di droga. E a Malta conduce anche un'importante inchiesta sul contrabbando di petrolio dell'ISIS, finito anche nei nostri distributori. Oggi la Procura di Catania ha chiesto più arresti. L'operazione è stata denominata Dirty Oil, un'associazione per delinquere internazionale finalizzata al riciclaggio di gasolio libico, sottratto in modo illecito alla compagnia nazionale libica, transitato poi su Malta attraverso la compiacenza di società commerciali e poi arrivato nei porti di Augusta, Civitavecchia e Venezia, nei depositi fiscali di una società italiana, la Maxcom Bunker, non l'unica italiana coinvolta. Abbiamo accertato la presenza di un'ulteriore associazione a delinquere che acquistava questo prodotto dalla Maxcom e lo canalizzava presso i distributori stradali. Dunque un lungo percorso per questo gasolio che finiva poi in tutta Europa. 9 le persone arrestate, tra cui 2 libici. Il fornitore, Ben Khalifa, che risulta agli arresti in Libia, era a capo di una milizia armata. È chiaro ed evidente che sono le stesse milizie che trafficano droga, che trafficano migranti, che si dedicavano anche al contrabbando internazionale di petroli. Centrale poi il ruolo delle società maltesi. E Malta e le società maltesi hanno un ruolo importante perché favoriscono sostanzialmente l'occultamento della provenienza delittuosa del bene. Contestata anche l'aggravante mafiosa, considerata la presenza nella stessa associazione di Nicola Orazio Romeo, ritenuto vicino alla famiglia di Santa Paola. Ma su questo la Procura di Catania attende ulteriori riscontri. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia che arriva dal Canada: il Quebec, che è la più estesa provincia del Canada, ha varato una legge che vieta alle donne musulmane di indossare il niqab o il burqa negli uffici pubblici o sui servizi pubblici. Sarà vietato in autobus, treni e per tutti i lavoratori di strutture pubbliche, compresi dottori, insegnanti e maestre d'asilo. E poi invece, tornando in Italia, la cronaca con la Procura di Roma che ha chiesto la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 2 anni di Valentino Talluto, il sieropositivo accusato di aver contagiato con rapporti sessuali non protetti una 30ina di donne. Questo sarà un argomento, uno dei temi di approfondimento stasera qui a Effetto Notte. Un'altra notizia di cronaca è che può uscire dal carcere Franco Della Torre, il 33enne che il 30 aprile scorso, viaggiando a oltre 115 a Milano, passò con il rosso a un incrocio, travolse col suo SUV l'auto di Livio Chiericati e fuggì, lasciando agonizzante il 57enne morto poi in ospedale. Lo ha stabilito che può andare ai domiciliari il GUP milanese Imarisio, che dopo aver condannato ieri l'imputato a 7 anni e mezzo di reclusione, oggi ha accolto l'istanza della difesa di concessione dei domiciliari, stabilendo tuttavia che l'uomo dovrà restare comunque a San Vittore finché non sarà disponibile per lui un braccialetto elettrico per restare ai domiciliari. E poi dobbiamo parlare di allarme smog, ne parleremo anche dopo, perché non piove, non migliora la qualità dell'aria nel nord Italia. A Torino in particolare siamo prossimi ai 10 giorni consecutivi di sforamento dei limiti di polveri sottili, il che farà scattare anche il blocco dei veicoli Euro 5. È il secondo livello di allarme, quello rosso, previsto nell'accordo di programma firmato da Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna nel giugno scorso. In pianura padana, ricorda il ministro dell'Ambiente Galletti, bisogna che tutti lavorino insieme. E poi ce ne occuperemo. C'è una notizia particolare dalla Cina: il riconoscimento facciale di massa è già una realtà. In Cina, ospedali, banche, università, strade, piazze, persino alcuni bagni pubblici. Le telecamere di sorveglianza in Cina sono un po' onnipresenti, almeno 176 milioni su tutto il territorio, pensate, ma la loro invasività ha fatto un salto di qualità grazie alle tecnologie di riconoscimento facciale ormai sempre più avanzate. A Shanghai uno degli utilizzi più innovativi è quello sui passaggi pedonali. Chi cammina fuori dalle strisce in alcuni incroci viene automaticamente riconosciuto e il suo volto appare su videoschermi adiacenti come forma pubblica di censura che si aggiunge al pagamento poi di una multa. E nei bagni del Tempio del Cielo, che è un complesso monumentale religioso di Pechino, il riconoscimento serve a evitare furti di carta igienica. Speriamo che non riprendano anche altre cose. Invece noi riflettori subito sul calcio, sulla Champions League, con il nostro Dario Ricci che è in diretta a Torino. Ciao Dario, la Juventus. Sì, buonasera Roberta, qua dall'Allianz Stadium. Siamo al 33esimo di gioco e tra Juventus e Sporting Lisbona è 1-1. Portoghesi passati in vantaggio al 12esimo su incursione di Gelson Martins, che si è presentato tu per tu con Buffon, come sta provando a fare anche in questa occasione, chiuso però da Alexandro. Al 12esimo invece l'attaccante portoghese era riuscito a infilarsi proprio nelle maglie della difesa bianconera. Bravo Buffon a respingerne la conclusione, sfortunato Alexandro perché la palla gli è carambolata su uno stinco ed è entrata in porta, quindi autogol del brasiliano. Il gol subito per paradosso ha svegliato la Juventus, fino a quel punto davvero intorpidita. Sono fioccate le occasioni, due con Khedira e Dybala, con due conclusioni da limite fuori di poco. Al 21esimo poi Mandzukic tocca sotto misura, bravo Rui Patricio a salvare in calcio d'angolo. Rui Patricio però beffato dalla splendida punizione conquistata e poi trasformata al 28esimo col suo magico destro da Miralem Pjanic, punizione dal limite, il bosniaco non ha lasciato scampo al portiere portoghese. Siamo quindi al 34esimo di gioco, 1-1 qui all'Allianz Stadium, mentre la Roma a Stamford Bridge contro il Chelsea è sotto per 1-0, Blues in vantaggio grazie al gol all'11esimo di David Luiz. Grazie Dario Ricci e anche tutta questa atmosfera festante che c'è sotto sotto la tua voce. Ci aggiorniamo tra poco, più tardi anzi, scusate, con Dario Ricci dallo Juventus Stadium di Torino. Adesso invece ci occuperemo di argomenti un po' più ponderosi. Intanto per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Tra poco ritorniamo sulla politica italiana. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi, quindi cominciamo ad approfondire i vari temi con gli ospiti. Intanto ci siamo lasciati con la Juventus contro lo Sporting che pareggia 1-1. Vediamo invece gli altri temi, adesso ci occupiamo di politica. Vi ricordo quali sono quelli principali di temi di oggi, delle notizie. Intanto ringrazio Carlo da Torino per il suo messaggio e anche Francesca Beltrame che scrive che a causa dell'informazione così come è gestita non segue la TV da almeno 3 anni, dice però se non perdo Effetto Notte sono super informata. Ecco, prendete esempio da Francesca, mi raccomando, tutte le sere dalle 21 alle 22 Effetto Notte per non dire un giorno io non lo sapevo, a proposito di notizie importanti, notizie che vi ricordo quelle centrali di oggi subito istantaneamente. Il caso Banca Italia, di cui torneremo a parlare tra poco con Matteo Renzi che insiste, nel settore banche è successo di tutto, è mancata la vigilanza, serve una pagina nuova, molte le critiche nei suoi confronti, qualcuno anche dal PD. Intanto Visco è stato ascoltato oggi in commissione d'inchiesta sulle banche. Legge di bilancio, il bonus cultura destinato ai diciottenni diventa permanente. Per quanto riguarda la crisi spagnola, la Catalogna è ormai alla vigilia del nuovo ultimatum di Madrid domani e capiremo che decisione prende. E poi il caso del sieropositivo che contagiò oltre 30 donne, il PM a Roma chiede l'ergastolo, a Milano invece la guida di un SUV uccise un uomo e fuggì, e sì, ai domiciliari. Allarme smog, misure d'emergenza in Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto e per il calcio vi ho aggiornato per quanto riguarda la Juventus. Per quello che ci riguarda non tocca a noi, non tocca al PD decidere il nome del prossimo governatore. Lo decideranno le autorità preposte. Certo è che se qualcuno vuol raccontare agli italiani che in questi anni nel settore delle banche non è successo niente, beh, quel qualcuno non saremo certo noi, non sarò certo io. In questi anni nel settore delle banche è accaduto di tutto, è mancata evidentemente una vigilanza efficace e di conseguenza la nostra mozione di ieri spiega con forza che c'è bisogno di scrivere una pagina nuova. E qui quindi Renzi, Matteo Renzi, avete sentito, il segretario del PD non torna indietro rispetto alla bombetta che è scoppiata ieri nel dibattito politico relativamente a Banca Italia, no? Riepilogo breve della puntata precedente: il PD ha presentato in aula alla Camera ieri una mozione che è stata approvata alla Camera, che punta a non rinnovare l'incarico al governatore di Banca Italia, che è Ignazio Visco. Questo per gli scandali bancari che ci sono stati nei mesi scorsi, che tutti sanno. Secondo il PD l'efficacia della vigilanza è stata messa in dubbio da ripetute rilevanti crisi o dissesti di banche, e quindi ha presentato questa mozione approvata, che però, seppur limata dal governo, ha creato un certo scompiglio, diciamolo. Renzi si è difeso dalle accuse di inopportunità di questa mossa, dicendo: nessuna invasione di campo da parte del PD, lo avete sentito, però non potevamo fare finta di niente. Subito ieri però c'è stato il gelo del Quirinale, con una nota del Quirinale di Mattarella che diceva che bisogna rispettare ognuno il proprio ruolo e quindi anche l'autonomia di una istituzione come Banca Italia nell'interesse del paese. Poi Visco ha detto subito che si rendeva disponibile per un'audizione, infatti oggi è stato ascoltato in commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche. Renzi ieri però ha detto che lui in realtà di questa mozione non ne sapeva nulla, e lo stesso anche per quanto riguarda Gentiloni, sembra che fosse all'oscuro nonostante sia presidente del Consiglio, nonché insomma un esponente non da poco del PD. E Renzi, a proposito di quello che ha detto Ferruccio De Bortoli, uno dei giornalisti più autorevoli, che ha detto che si tratta questa mozione di un atto eversivo, dice: in realtà non c'è nulla di eversivo perché è stato limato e poi approvato dal governo. Padoan addirittura, il ministro dell'economia, ha detto, pare che abbia detto: dimmi che non è vero. Insomma, le reazioni sono state tante, anche oggi da Veltroni, che ha detto è una mozione giustificabile, a Calenda, ministro dello sviluppo economico, che ha detto non commento per carità di patria, Napolitano, queste sono cose deplorevoli. Ma anche nel PD insomma c'è parecchio scontento. Ne parliamo con la nostra Barbara Fiammeri. Cara Barbara, buonasera. Vogliamo sentire anche, per esempio, fra i vari, un Di Battista proprio di Gentiloni? Penso che a Palazzo Chigi dovrebbe scrivere: torno subito, è diventato in poco tempo, posso parlare? Colleghi, per favore. Colleghi. È diventato in poco tempo come Belfagor, cioè il fantasma di Palazzo Chigi. Quando c'è da mettere la faccia, onorevole, lei non mette la faccia. Onorevole Di Battista, quando però lei sia al tema e sia rispettoso dei ruoli di quest'Aula. Ho detto Belfagor, non prego. Ho detto... Onorevole Di Battista, quando la prego. Quando invece è costretto ad esserci perché deve andare a Bruxelles, evidentemente è costretto ad esserci e ci mette la faccia. Barbara, quindi è credibile che oltre a Renzi neanche Gentiloni, anche il ministro dell'economia Padoan, nessuno sapesse nulla di questa? Chi è che sapeva qualcosa? Da dove è partita questa mozione? Siamo ai fatti. I fatti ci dicono che tra la prima mozione presentata dal PD e la seconda mozione votata dall'Aula con il parere favorevole del governo, cioè la differenza è che nella seconda mozione, diciamo un po' edulcorata rispetto al testo precedente, ma comunque sempre critica, cioè come una presa di distanza, comunque c'è stato il parere favorevole del governo. Quindi non è che il governo non ha detto proprio niente. Ma nel governo non ci sono Padoan, Calenda e prima di tutto Gentiloni come presidente? Sì, però quando si presenta... Sì, d'accordo, però non è che si riunisce il Consiglio dei Ministri per decidere su una mozione, quindi immagino che sicuramente dal Ministro dell'Economia sia venuto un po' un via libera, perché qualcuno deve aver detto avanti, oppure dello stesso Gentiloni, cioè qualcuno a Palazzo Chigi, tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia, un via libera a questa mozione rivista e corretta l'ha dato. E questo è un fatto, cioè, poi che Gentiloni prima che il PD presentasse la mozione sapesse o non sapesse, questo purtroppo io non posso affermarlo né in un senso né speravo nell'altro. Speravo che tu in retroscena ti fossi informata segretamente. Allora, in retroscena dicono entrambe le cose, cioè dicono che Gentiloni era stato informato, sia pure, come dire, non molto tempo prima, ma dicono anche il contrario, cioè che sia stata una, come dire, un fulmine a ciel sereno. In realtà il cielo non era troppo sereno, cioè questa vicenda, l'ho detto anche ieri sera, questa vicenda della mozione su Visco non era in calendario dal giorno prima, cioè si sapeva da tempo che sarebbe stata discussa quel giorno, e quindi immaginare che non se ne sia parlato resta difficile, cioè mi rimane difficile pensare che anche nel governo non se ne sia parlato, soprattutto ad altissimi livelli. Una vicenda quindi, un po' misteriosa, diciamo. Beh sì, diciamo una vicenda misteriosa che a questo punto, anche perché soprattutto coinvolge le istituzioni più alte, cioè il Quirinale, che poi è il Colle che farà il decreto di nomina del governatore, il governo che deve fare il nome, e poi la Banca d'Italia ovviamente che dovrà dare il suo assenso comunque. Quindi, ricordiamo che il mandato scade a fine ottobre, no? di Visco, perché dura 6 anni quello del governatore di Banca d'Italia, no? Sì, sì, perché un tempo era... a vita addirittura, come il Papa, un po' eccessivo Fazio, forse, Antonio Fazio, ricordiamo. È diventato appunto a tempo di 6 anni. A questo punto sulla riconferma o meno di Visco, anche qui ieri sera dicevo che i bookmakers davano in ascesa le chance di riconferma. Io dicevo di no. Tu dicevi di no. Oggi ti dico che 50 e 50. 50 e 50 siamo. Sì. Ma insomma, capiamo poi che cosa avrà spiegato oggi in commissione d'inchiesta parlamentare. Vedremo domani se ci sono delle ulteriori dichiarazioni. Senti, invece, per quanto riguarda il referendum lombardo-veneto, no? Che si vota un referendum consultivo, si vota il 22 ottobre in Lombardia e Veneto per chiedere più autonomia allo Stato. Nel frattempo però sai che l'Emilia Romagna li ha superati così d'un balzo, incontrando direttamente il Presidente del Consiglio e chiedendo appunto di poterlo fare in base all'articolo 116 della Costituzione. Però comunque, a proposito della Lombardia, c'è stato un incontro oggi tra Silvio Berlusconi e Maroni, no? per sostenerlo in questo referendum. Non c'era Salvini, anche se sembra che un incontro con Berlusconi ci sarà venerdì. Salvini forse è particolarmente concentrato sulla campagna elettorale in vista delle politiche, gli interessano di più? Ma sicuramente, cioè Salvini sta facendo, è da tempo in campagna elettorale, sta visitando lo stivale in lungo e in largo, oggi era un campo nomadi inneggiando alle ruspe vicino Roma, ieri era in Sicilia, sarà venerdì comunque alla chiusura della campagna referendaria in Lombardia, però è evidente che il segretario della Lega, insomma, non è che ci stia mettendo più di tanto la faccia, insomma, basta aprire la sua pagina Facebook per rendersene conto. È disinteressato secondo te alla questione? Non è che è disinteressato, diciamo che il progetto di Salvini è quello di superare gli argini del Po, cioè di andare oltre e quindi non può una Lega nazionale, no? Rispetto, certo, a quella di Bossi, non può rivendicare, no, l'autonomia nordista più di tanto, perché questo lo penalizzerebbe il suo progetto, che invece è quello di una Lega che dalla Sicilia fino alle Alpi ha un consenso rilevante, anzi diventa il primo partito del centrodestra, e quindi lui come segretario del primo partito assume la leadership della coalizione. Quindi diciamo che Maroni potrebbe essere un contendente che è meglio lasciare da parte, un po' come avviene tra Renzi e Gentiloni? Sì, anche se in realtà, cioè Maroni, per Maroni la prospettiva è quella della riconferma alla guida della Lombardia. Diciamo che i rapporti tra i due non sono certamente ottimi, perché forse proprio per il ruolo, diciamo, che in questo rapporto esercita un terzo ospite, ovvero Silvio Berlusconi, cioè il rapporto tra Maroni e Berlusconi è forte, e lo è stato anche nei momenti più gelidi del rapporto invece tra Salvini e Berlusconi, quindi questo atteggiamento molto aperturista di Maroni verso Berlusconi piace poco al segretario della Lega, che invece vuole marcare la differenza. Come si sa, insomma, che c'è un rapporto teso tra Berlusconi e Salvini. Barbara, ci dobbiamo lasciare. Intanto leggo questo messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che dice: fossi Mattarella, per fare un dispetto all'invadenza di Renzi, al posto di Visco metterei un economista che sta, dice, sulle palle a Renzi, ad esempio Cottarelli, quello famoso della spending review, ma penso che ormai sia in altre direzioni, anche se non è detto, chissà che cosa esce dal cilindro. Barbara Fiammeri, intanto ci salutiamo, buona serata. Buonasera a voi. Ciao Barbara. Pausa e poi con gli altri temi. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State ascoltando Effetto Notte, allora siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora ad approfondire i temi, mentre vi ricordo molto velocemente quali sono le notizie più importanti della giornata. Se qualcuno non fosse stato puntuale alle 21, abbiamo parlato del caso Banca Italia con Matteo Renzi, che non demorde, dice: nel settore banca è successo di tutto, è mancata la vigilanza, serve quindi una pagina nuova. Molte le critiche nei suoi confronti, anche dall'interno del PD, e intanto il governatore Visco oggi è stato ascoltato dalla commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche. Legge di bilancio, abbiamo detto che tra le novità il bonus per i diciottenni diventa permanente, e poi il sieropositivo che contagiò oltre 30 donne, il PM chiede l'ergastolo, ne parleremo dopo. Allarme smog è un tema che adesso stiamo per approfondire. Per quanto riguarda il calcio, nella partita di Champions League in campo Juventus e Roma in cerca di riscatto, ma mi sembra che la Juventus si sia riscattata con 1-1 con lo Sporting, mentre il Chelsea-Roma Roma adesso è sotto di un gol. No, mi dicono la regia 1-2, 2-1 per la Roma? No, non per la Roma, per il Chelsea. Ecco perché qui sto guardando gli aggiornamenti dei siti e evidentemente sono indietro, non è colpa mia, mi spiace. Adesso però ci occupiamo di qualcosa di più importante, perché partono in questi giorni le prime misure per far fronte all'inquinamento, allo smog che straborda dai limiti consentiti, quindi pericoloso per la salute. È il momento di solito un po', diciamo, cruciale, no? per cercare di gestire un po' la situazione dell'inquinamento nelle città. Poi c'è l'assenza di piogge, che in particolare a Torino e Milano sta creando grossi problemi, ma anche in altre province della Valpadana. Voi sapete, la Valpadana è purtroppo il luogo in Italia dove più si concentrano le polveri sottili, l'inquinamento, anche proprio per le sue condizioni morfologiche, le cosiddette, le famigerate PM10, le polveri sottili, e ha indotto alcuni comuni, tutto ciò, ad adottare, anzi ad anticipare rispetto all'inverno, provvedimenti di emergenza. Sono le cosiddette misure di primo livello che, come ha stabilito l'accordo del bacino padano, che è stato firmato in estate da diverse regioni, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, per l'adozione di misure omogenee contro le polveri sottili. Ma c'è la nostra Laura Bettini. Cara Laura, ciao. Ciao Roberta, ciao a tutti gli ascoltatori. Che adesso ci spiega quali sono queste misure che si stanno prendendo in questi giorni, se sono efficaci, che cosa prevedono. Se sono efficaci, mi chiedi di guardare la palla. Finora lo sono state o non lo sono state? Sono più o meno sempre le stesse misure? Sono misure, sì, più o meno sono sempre le stesse. La novità di quest'anno, la vera grande novità, è che vengono applicate su scala di bacino, no? E questo dovrebbe aiutare a risolvere più rapidamente la situazione, o comunque Quindi il bacino, dici, l'intera pianura padana, tutta non l'intera una regione. Prima ci siamo sempre lamentati negli anni scorsi che prima faceva una, poi Milano lo faceva, poi dopo che so io Pavia non lo faceva, quell'altro di fianco, la regione di fianco aveva delle misure in un modo, gli altri avevano misure in un altro. L'accordo di programma che è stato fatto quest'estate dovrebbe dare una certa uniformità a queste misure, e quindi quando scatta il primo livello, che scatta dopo alcuni giorni, 4 giorni di allarme, si fa in questo modo e non è che ciascuno decide per sé e fa quello che vuole. Sta succedendo che tutte e sta queste succedendo regioni, è chiaro che non in tutti i luoghi si è arrivati ai 4-5 giorni e così via. Sappiamo che Torino è in una situazione molto peggiore di quanto non sia Milano in questo momento, di come non sia Bologna, però sappiamo che reagiranno tutti allo stesso modo, e questo è già un passo avanti. Ci sono adesso, parliamo di auto perché perché il riscaldamento, onestamente, chi l'ha acceso, io non lo so, forse in montagna, certamente in pianura. Si spera, perché si sta ancora piuttosto bene. Si sta piuttosto bene, tant'è che c'è stato un invito preciso da parte di tutte le regioni a non accendete i riscaldamenti, per favore, ci sono 25 gradi di giorno. Perché ricordiamo che anche il riscaldamento, non solo le auto, l'industria, no, creano inquinamento. L'auto, l'industria, il riscaldamento, per chi ce le ha le navi, ma non è il caso della pianura padana, ci sono tantissime forme di inquinamento atmosferico e non ci sono solo le PM10, sappiamo che ci sono ancora più piccole, 2.5, cioè polvere ancora più sottili, quindi più facilmente entrano i nostri bronchi, nei esattamente polmoni. Quindi sono pericolose, le fonti sono diverse e ci sono diverse fonti pericolose per noi, purtroppo, però ecco, la reazione vorrebbe essere comune. È chiaro che si può fare sempre di più e sempre meglio, bisogna passare più rapidamente a mezzi meno inquinanti. Il diesel in alcuni paesi è stato già bandito, nei paesi, sai che io mi ricordo nord, che anni fa, forse ero ancora ragazzina, diciamo che il diesel era la grande novità, il meno inquinante, poi invece no, sì, sì, era la grande novità perché costava meno della benzina, però da un punto di vista della salute fa molto peggio. Laura, ci parli tra poco delle principali misure che si potrebbero prendere, per esempio anche Galletti ha detto ci saranno nuovi finanziamenti per trasporti più sostenibili, cerchiamo di capire cosa si tratta, però intanto vorrei coinvolgere l'avvocata Anna Gerometta, che è presidente di Cittadini per l'Aria, che è un'associazione che è nata a Milano e poi è diventata a livello nazionale, fa pressing anche sull'Europa. Avvocata, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a voi. Ci sintetizza, giusto per dare l'idea a chi ci ascolta di quanto sia importante che ognuno dia il proprio contributo, qual è l'impatto sulla salute umana, almeno per quanto riguarda le nostre città in Italia, senza andare chissà dove? Beh, guardi, l'impatto è gravissimo, purtroppo è difficile come dire, riportare alla qualità dell'aria cattiva un evento, una morte specifica o una malattia specifica, ma la realtà è che noi non ce ne accorgiamo, ma ci ammaliamo a causa della cattiva qualità dell'aria, abbiamo tumori a causa della cattiva qualità dell'aria, abbiamo morti diciamo premature, per cui infarti, ischemie e un sacco di eventi che potrebbero essere evitati e che ovviamente sconvolgono le nostre vite. E quindi diciamo la qualità dell'aria è una questione di qualità della vita, di affetti, di dolore, e quindi va certamente posta a tutti i livelli come un tema assolutamente prioritario. Se noi consideriamo che in Italia abbiamo circa 60.000 morti all'anno premature a causa della qualità dell'aria, ci rendiamo conto del livello di gravità. È una strage, cioè è una mattanza ogni anno che viene completamente diciamo abbandonata a se stessa. È come se avessimo centinaia di terremoti in tutto il territorio ogni anno senza che nessuno in realtà faccia molto. Voi parlavate prima del fatto che stiamo facendo tutti la stessa cosa, non è vero, perché per esempio in Emilia Romagna hanno già bloccato gli Euro 3 diciamo in pianta stabile, i diesel Euro 3, in Lombardia non sono bloccati, cioè sono bloccati solo come misura di emergenza. Chiaro, quindi ci sono i più virtuosi e i meno virtuosi sempre, come comunque sempre, a dispetto dei protocolli e a dispetto di misure che sono misure di bacino ma che hanno un livello di cogenza molto ridotto, che hanno un livello diciamo di obiettivi temporali molto allungati e quindi sono sostanzialmente inefficaci, insufficienti. Avvocata Gerometta, sentiamo Laura prima di lasciarci, la nostra Laura Bettini. Laura, cosa si intende, sì, quindi, per mobilità sostenibile? Dicevo, io parlavo del protocollo che è stato così sottoscritto. A proposito di più virtuosi, c'è il comune di Torino, ad esempio, che in questo momento sta decidendo di andare oltre quell'accordo di programma, decidendo di applicare già adesso qualcosa che era previsto per l'anno prossimo, ovvero il blocco degli Euro 5 a partire da questo sabato. stato blocco degli Euro 5 a causa di 10 giorni consecutivi di sforamento. Il Comune di Torino ha anche previsto un terzo livello di allarme, che speriamo non debba mai ovviamente scattare, per i 20 giorni consecutivi, e in questo livello di allarme si prevede di bloccare tutti, a parte i mezzi ecologici, quindi quelli che hanno ad esempio la trazione elettrica. Ovviamente non puoi bloccare le bici, ovviamente ne sarebbero escluse, insomma, eccetto quelli che chiaramente non hanno emissioni pericolose. Laura, ci dobbiamo proprio lasciare, ma per mobilità sostenibile, quindi cosa si intende? Appunto mezzi di trasporto elettrici. Sì, cioè è una categoria molto vasta e anche lì molto discutibile, nel senso che possiamo parlare di sostenibilità anche nel momento in cui usiamo il mezzo pubblico. Poi dipende anche da che tipo di mezzo pubblico stiamo utilizzando, se è un vecchio autobus scassone o qualcosa di Però al di là delle politiche dell'amministrazione, ognuno di noi può dare il proprio contributo. Noi possiamo dare il contributo, dobbiamo rispettare certi limiti. Se mi dicono di tenere riscaldamento più basso, per favore facciamolo. Se mi chiedono di non utilizzare una certa Vespa perché vecchia, non utilizziamola. Non possiamo pensare che ci vengano a cercare casa per casa per vedere se controlliamo, sta anche a noi. Grazie Laura Bettini, grazie all'avvocata Anna Gerometta, mi raccomando, quindi le indicazioni sono state date. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con infatti gli approfondimenti. Intanto vedo che Elena sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: secondo me la sortita di Renzi su Visco ha due aspetti, una ritorsione di carattere personale e un'iniziativa politica di rincorsa ai 5 Stelle, dice inopportuno, controproducente, evidentemente ha fatto le sue valutazioni. Questa è l'analisi di Elena. Adesso però ci spostiamo su un altro argomento, quindi avete sentito le notizie più importanti, ancora le critiche su Banca Italia e poi adesso abbiamo parlato dell'allarme smog. Nel frattempo proseguono le partite di Champions con la Juventus che è sempre 1-1, mentre adesso vediamo se i siti sono aggiornati per quanto riguarda la Roma. La Roma per il momento perde 2-1. Adesso però ci occupiamo della vicenda di cronaca, la vicenda dell'uomo che ha infettato col virus dell'HIV almeno 30 donne. Si tratta di Valentino Talluto, di 33 anni, che ha trasmesso volontariamente il virus attraverso rapporti sessuali non protetti, mentendo sul suo stato di salute, dicendo che aveva un'allergia al lattice. La procura, al processo in cui è imputato, ha chiesto alla procura di Roma per lui l'ergastolo. Per l'accusa la condotta dell'uomo fu malvagia. I reati contestati sono lesioni volontarie, falso ed epidemia. Ne parliamo con Adelaide Pierucci, cronista del Messaggero. Buonasera Adelaide. Buonasera. Grazie della disponibilità. Adelaide, ci riassumi un po' questa vicenda? Tra l'altro lui praticamente è da considerare, considerato con la richiesta dell'ergastolo, una specie di potenziale serial killer, nel senso che fino a qualche tempo fa si moriva di AIDS, adesso si può comunque vivere lo stesso tanti anni con dei trattamenti, però insomma non è un'influenza ovviamente, è una cosa gravissima, no? E anche passarla così volontariamente. La procura ha comunque specificato che è una malattia inguaribile, che comunque non si guarisce, diciamo. Oggi è successo che appunto è stata chiesta la massima pena prevista dal nostro codice, che appunto è l'ergastolo con 2 anni di isolamento diurno. È un caso unico questo di Valentino Talluto, perché in Italia non ci sono mai state condanne per epidemia dolosa. C'è stata un paio di volte, se ne è parlato anche in aula, contestazioni che però sono risolte con assoluzioni e che riguardavano contagio da salmonellosi. Questo è un caso più delicato e più grave, che ha coinvolto tante donne, ma anche un bambino che era in grembo nel momento in cui è stata contagiata la mamma, 2 partner di altre donne che erano, secondo l'accusa, appunto erano state contagiate. L'accusa ha fatto un calcolo di 32 persone, più 27, l'ha definita la PM d'aula, 27 miracolate, 27 che hanno avuto comunque intimità non protette con Valentino Talluto, così come chiedeva lui nella maggior parte dei casi, e che insomma hanno scampato il potevano essere il una contagio. Sessantina, quindi insomma le donne che sì, sì, però è stato sottolineato in questa udienza, ma anche in altre udienze precedenti, non viene considerato un caso chiuso, nel senso che da parte dell'imputato non c'è mai stato nessun tipo di, diciamo, di collaborazione. Lui ha sempre detto, insomma, ha sempre detto nei due interrogatori che ha fatto dopo l'arresto e anche quando ha fatto spontanee dichiarazioni in aula, ha detto: non sono un mostro. Io non ho fatto questi, i rapporti, insomma, si tengono a due. Certo, peccato che lui non ha mai detto di essere ammalato di HIV. Peccato che lui non ha mai detto di avere, sì, lui non lo ha mai detto. Adelaide, senti, ma sì, adesso è stato chiesto l'ergastolo, quando dobbiamo appunto chiudere, quando si dovrebbe arrivare la sentenza? A fine mese, ottobre. Il 25 ci sarà la difesa che discuterà. La difesa si difende, cioè punta sul fatto che è vero sì che ci sono 32 persone appunto contagiate da questo stesso ceppo virale, diciamo, però dice non si sa chi abbia contagiato chi. Qua si sta scaricando la responsabilità sulle ragazze, che devo dire che la maggior parte sono venute tutte le udienze in aula e hanno un po' nascosto la loro distrazione, l'hanno un po' superata facendo amicizia tra di loro. Sono molto unite. Bello almeno anche questo contesto, dal punto di vista questo aspetto umano. Insomma, oggi insomma, una delle rare volte che alcune di loro sono messe a piangere dopo la richiesta dell'ergastolo, dopo che immaginiamo, sono state ricostruite le vicende più toccanti e si passavano i fazzoletti l'una con l'altra, insomma, per confortarsi. Grazie Adelaide, veramente una situazione incredibile. Poi capiremo a fine mese quindi come andrà a finire. Grazie Adelaide Pierucci del Messaggero. Buonasera. Ciao, buona serata. Subito la voce a Dario Ricci in diretta da Torino. Dario. 52esimo di gioco all'Allianz Stadium, 1-1 tra Juventus e Sporting Lisbona. Ricordiamo il tabellino: al 12esimo l'autogol di Alex Sandro che ha portato in vantaggio lo Sporting, al 28esimo il pareggio su calcio di punizione di Pjanic prima e dopo della rete juventina, tante occasioni per i bianconeri, bravo Rui Patricio, imprecisi finora gli attaccanti di Allegri. Va peggio alla Roma che è invece sotto per 2-1 a Stamford Bridge contro il Chelsea avanti con David Luiz all'11esimo, al 37esimo il raddoppio di Hazard, poi al 40esimo la botta di Kolarov ad accorciare le distanze. Roberta, grazie Dario Ricci, grazie, comunque buon proseguimento, buon divertimento lì a Torino. Noi ci dobbiamo lasciare, poi alle 22 ritorno per ricordarvi giusto i titoli.